La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme, buon sabato e buon cinema a tutti da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento con il cinema in sala e non solo. E allora, settimana con non tantissimo materiale su cui, diciamo, piombare al cinema in tutta velocità, ma insomma qualcosa di interessante c'è. È una settimana nella quale chiaramente viaggerà ancora a gonfie vele il blockbuster della scorsa settimana, dello scorso weekend, ovvero Maleficent, il disneyano Dark Side della Bella Addormentata, con Angelina Jolie, 6 milioni di euro di incasso nel primo weekend. È chiaramente un film che contrassegnerà in maniera forte questa parte della stagione, però c'è spazio anche per altri, e noi vogliamo cominciare subito col ritorno sui grandi schermi d'Italia di Kevin Costner. Qualcuno potrebbe anche dire: c'era una volta Kevin Costner. Effettivamente lo dico addolorato, perché è stato un mio idolo negli anni 80 e 90, effettivamente un po' sì, Kevin Costner ha avuto una stagione lunga e di grandissimi successi, è stato per un certo periodo forse l'attore più importante in termini di visibilità e di pubblico, di popolarità del firmamento hollywoodiano. Poi, anche complice una serie di scelte sbagliate, le cose non sono andate benissimo. Adesso torna con un film che potremmo quasi definire un film a progetto, cioè Three Days to Kill, la storia di un uomo, un ex agente CIA, anzi un agente CIA ormai vicino ai 60 anni, che scopre di avere una malattia terminale e vorrebbe usare questo poco tempo che gli rimane per rimediare agli errori della sua vita, tra gli altri anche provare a mettere insieme un rapporto vero con sua figlia. Gli arriverà una proposta di quelle che non si possono rifiutare. Avevo voglia di vederti. Sono malato. Non voglio che Zoe lo sappia. Dille solo che le vuoi bene. Lo sa. Vuoi che ti chiami papà o solo Ethan? Questa è per me? Sì. È molto viola. È il tuo colore preferito? Di quando avevo 9 anni. Non credi che Zoe si meriti di stare vicino al suo paparino per più di qualche misero mese? Voglio che tu lavori per me, in cambio dei tuoi servizi. Potrei offrirti una cura sperimentale. Ti interessa? Potrebbe allungarti la vita. La domanda è: uccidere o morire? E su questa domanda si gioca un film che avrebbe motivi anche di interesse. Andiamo a vedere se sono tutti realizzati e a che livello, con il nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Boris. Buongiorno Franco, temo di no, temo proprio di no, nel senso che non basterebbero 3 giorni per definire i difetti di questo film. Film che è vittima degli stereotipi, forse l'unico stereotipo a cui non obbedisce è questo Kevin Costner che cerca di fare l'eroe d'azione, l'eroe che non è mai stato, ha sempre cercato altre poetiche, però poi non decolla mai, perché è stereotipato il rapporto tra lui e la figlia. Addirittura c'è uno split screen a un certo punto in cui gli insegna da piccola ad andare in bicicletta e poi lei dall'altra parte viene invece psicanalizzata in maniera piuttosto melodrammatica. Tutti i caratteristi, tra cui un italiano e un turco, sono dipinti in maniera imbarazzante. Persino la malattia viene raccontata con azioni come colpi di tosse piuttosto banali. Il film non decolla mai. Temo che anche la presenza nella costruzione del film di Luc Besson, perché il regista è quello sì di Sally Angel, ma in produzione c'è Luc Besson, sia stato un minus nel film, perché l'impressione è che non si riesca ad uscire dall'epoca in cui Besson aveva successo, da quel modo di raccontare tagliato con l'accetta, che non riusciva a dare tutta questa profondità, che forse negli anni 90 aveva più effetto, anche perché Besson era in grande forma dietro la macchina da presa, ma che adesso davvero sembra un residuato del passato e anche francamente scarso. E allora, bocciato Three Days to Kill, il ritorno in sala di Kevin Costner, noi proviamo a rifarci con il nostro gioco per provare a vincere 2 copie di un DVD o di un Blu-ray di un film che dovete indovinare. Hai cominciato in questo locale a bere? No. Papà mi faceva assaggiare la birra. E tu hai tramandato questa bella tradizione di famiglia a me e Ross. Ti piaceva, da quel che mi ricordo. Avevo 6 anni. Un dialogo padre-figlio, un bar, una storia da raccontare. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo di questo film, se lo avete già indovinato, e il vostro indirizzo per provare a vincerne una delle due copie in palio. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. E parliamo allora di cinema italiano. È una settimana da cinema italiano al femminile questa, perché sono registe quelle che arrivano in sala a rappresentare il nostro cinema. Cominciamo con quella che è sicuramente la più famosa delle due, ovvero Asia Argento, con il suo film recentemente passato al Festival di Cannes intitolato Incompresa. Io credo che l'angelo custode entra in qualcuno che ci sta vicino e che ci protegge. Il mio è entrato in un gatto nero e si chiama Duck. E allora, le note anche della colonna sonora del film di Asia Argento con Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e altri e altre, soprattutto un film molto femminile, altre attrici. Boris, il tentativo mi pare sia quello di collocare, di mettere il punto di vista del bambino al centro della narrazione. Sicuramente all'altezza di bambina la narrazione avviene e devo dire c'è anche uno sforzo di raccontarla con quegli occhi, con quel modo di pensare, con quel modo di fare. In questo senso forse ha avuto anche successo. Io mi trovo sempre difficoltà nel giudicare Asia Argento, perché quando tutti la massacrano, tra virgolette, a me piace. Io devo dire che i suoi primi due film da regista li ho apprezzati molto, e adesso che a Cannes gli stranieri l'hanno decisamente promossa, io mi ritrovo a bocciarla, perché proprio quello che era piaciuto in passato qui io non lo trovo. Qui trovo una storia molto convenzionale, una sorta di autobiografia a fumetti in cui lei racconta i suoi piccoli e grandi traumi attraverso questa coppia atipica, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garco. Qual è la sorpresa? Che mentre Gabriel Garco i suoi limiti li fa diventare pregi, anche proprio grazie al personaggio che gli consegna Asia Argento, che è quella di un attore cane che però vince addirittura i David di Donatello, fallisce in su tutta la linea invece Charlotte Gainsbourg, che io non ho mai visto recitare così male. Certo, non viene aiutata da una sceneggiatura che sembra una sorta di parodia del Tempo delle Mele, quindi anche in questo caso, anche se è una regista che stimo, mi ritrovo a dover bocciare il film, perché a mio parere non riesce a trovare né visivamente né a livello di scrittura una sua forza, una sua potenza che possa emozionarti e trasportarti nel mondo vintage, perché è quello dell'infanzia dell'Argento, dell'adolescenza dell'Argento, che vorrebbe raccontarci. La Rosa Purpurea. E ancora insieme alla Rosa Purpurea annunciavamo poco fa la commedia popolare francese, ormai è diventato un vero beniamino anche da noi, Danny Bonne, che insomma è stato uno degli artefici dell'esplosione di questo nuovo filone di commedia alla francese, potremmo chiamarla, parafrasando il celebre genere italiano. Tutta colpa del vulcano, il titolo originale è quello del famoso, e non lo dico perché non lo so dire, del famoso vulcano islandese che nel 2010 bloccò l'Europa con le sue ceneri, e in questo caso blocca due ex mariti e marito e moglie, ovvero appunto Danny Bonne e Valérie Bonneton, che stanno andando divorziati al matrimonio della figlia in Grecia, ma l'aereo deve atterrare in Germania per via delle polveri. Da lì in poi sarà un road movie davvero molto movimentato. Ti stupisce che tua figlia non parli di te? Che dovrebbe dire? Ah, non cominciare. Mio padre, lui vive in un bilocale a Clamart con la mia matrigna. Si veste come uno sfigato e la sera guarda la sua TV da sfigato perché gli piace vivere da sfigato. Mia madre invece si diverte tanto. È piena di soldi e piena di uomini. Purtroppo non ha famiglia e non ha amici. È molto sola, la mia povera mammina. È simpatico, è simpatico mio padre. La cosa più simpatica di lui è che ha ancora la sua piccola autoscuola con una sola auto. Perché due, per lui sarebbero troppo lavoro. Perché mio padre è un grande sfaticato. Quando qualcuno porta un animale malato nella clinica veterinaria di mia madre, lei va a letto con il cliente perché è una grandissima zoccola. Chiedimi subito scusa. Non sei forse andata a letto con il bassotto? Non stavamo più insieme. Non avevamo divorziato. Chiedimi scusa o salta il deposito cauzionale. Ecco, questo è il clima più o meno in cui si svolge il viaggio, con sotterfugi, trabocchetti tante peripezie. Boris è un film, a mio modo di vedere, a due facce, perché i due attori sono bravissimi e ormai Danny Bohm non lo scopriamo. Io l'avevo amato ancora di più nel film recente su quel caso di ipocondria, supercondria, quello ricorderete, di ipocondria manifesta. Però devo dire, la coppia comica funziona molto bene. A mio modo di vedere, quello che si perde un po' durante il film è proprio la regia. Cioè, a un certo punto il film tende un po' a ripetere le situazioni e si appoggia tutto sulle spalle degli attori. Sì, sono pienamente d'accordo. Due bravi attori che hanno anche una bella alchimia tra loro. Non a caso quello che riesce meglio, quello che piace di più, è proprio il momento dello scontro pieno di amore e odio di questa coppia, che insomma si conosce fin troppo bene per non farci ridere dei reciproci difetti, anche dei difetti comuni. E il problema è proprio quello, che una regia diligente all'inizio diventa poi totalmente funzionale, quasi fosse una serie di sketch televisivi, e la regia perde completamente di personalità e segue solo questo on the road, che tra l'altro anche nella struttura narrativa è decisamente scolastico. Tutta colpa del vulcano è uno di quei film di cui fai fatica a parlare male, perché comunque la scrittura presenta dei momenti chiave raccontati piuttosto bene, si ride al momento giusto, si viene pure coinvolti in qualche modo al momento giusto, appunto gli attori sono bravi, la regia non è così scarsa da doverlo stroncare, però ha proprio questo difetto, cioè non riesce a uscire dalla propria medietà mai, e soprattutto di queste storie in quel cinema ne abbiamo viste già un po' troppe per poterne sopportare un'altra che non abbia un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ti trasporti oltre. Certo è che per i fan di Danny Boone forse può bastare Avanzare, anche se, come dici tu, io probabilmente rivedrei Supercondriaco. Ah beh, assolutamente, tra l'altro dove c'era anche la stessa attrice, ma effettivamente è vero, si ride abbastanza anche nella seconda parte del film, però grazie alle battute, grazie alle espressioni, grazie alla recitazione degli attori, certo non grazie al film, che comunque ricordiamo, Tutta colpa del vulcano, nelle sale italiane. Sentiamo la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Papà, lasciami in pace. Dai, ti riporto a casa. Io vado a Lincoln, anche a costo di crepare. Non mi importa di cosa pensate. Stammi a sentire, non hai vinto un bel niente. È una truffa quella lettera, perciò smettila, ok? Sta per scadere il tempo. E allora ancora avete sentito un momento padre e figlio in uno di quelli che secondo me è davvero uno dei più bei film della stagione che si sta chiudendo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Provate a vincere una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana. E allora andiamo all'altra proposta italiana. Abbiamo detto, abbiamo fatto scelte al femminile, abbiamo parlato prima del film di Asia Argento. C'è un piccolo film che arriva dalla Puglia e ci interessa soprattutto per un fatto, anzi per alcuni fatti. Uno è che è di una regista, Rossella De Venuto. Due, che è un film di genere, è un horror, e a mia memoria è forse il primo horror, almeno in tempi recenti, di una regista donna in Italia. Anzi, forse direi proprio il primo film di genere in generale. Si intitola Controra, House of Shadows. Ora dovete sapere che il sottoscritto è di origini pugliesi e la controra è una parola che è nelle mie orecchie da quando ero bambino, cioè il momento dove dopo pranzo ci si mette a dormire, si fa il sonnellino pomeridiano. Ma la controra è anche un momento molto ricco di suggestioni. Si dice, si narra nelle leggende che è il momento in cui i morti vengono a trovare i vivi. E proprio su questo aspetto, anche quasi da cultura popolare, che il film crea e costruisce il suo impianto horror. Il paese è completamente deserto. È la controra. Questa è l'ora in cui le ombre dei morti tornano in vita a trovare i vivi. Sei una strega e te ne devi andare. insomma c'è tutto delle suggestioni dell'horror in un film che rimane abbastanza interessante, Boris, anche dopo la visione, cioè non solo nelle premesse. Beh, io devo dire che per me è il film della settimana, sono d'accordo con te, io faccio fatica anche a uscire fuori dall'Italia e ricordarmi molte donne che abbiano fatto film di genere, tra l'altro con questa sensibilità, che è una sensibilità che va, secondo me, dal Pupi Avati della Casa delle Finestre che Ridono a un certo Polanski, chiaramente con le debite proporzioni, ma neanche tanto, e che sa raccontare questa Puglia diversa, tra l'altro siamo nel Nord Barese, non nel solito Salento che vediamo spesso nel cinema italiano, ed è affascinante per tanti versi, per il contenuto, perché è un film che ha anche forti tratti anticlericali, senza però essere ideologico, ci sono anche personaggi positivi in quell'ambito, e se si pensa che è coprodotto da Italia e Irlanda, fa capire che il coraggio non è solo cinematografico ma anche contenutistico. È un horror d'atmosfera, cioè in un periodo in cui quasi tutti i registi che si danno al genere cercano lo splatter, il sangue, qui invece si cerca una certa raffinatezza stilistica. Ci tengo a sottolineare quanto siano bravi gli attori, Fiona Gescott, che esce fuori dallo stereotipo della bionda attrice del cinema di genere, che di solito viene schiacciata dal genere stesso, e soprattutto Pietro Ragusa, che è uno di quei straordinari interpreti, molti lo ricorderanno, in Si può fare, che il cinema italiano ha e che non sa sfruttare, che sottovaluta straordinariamente. Rossella De Venuto ha questa capacità di raccontarti in poco tempo, 85 minuti, una visione di un sud molto solare, fin troppo, e già questo pure è qualcosa di straordinario, perché l'horror d'atmosfera ha bisogno di cupezza, ha bisogno di buio, e invece lei cerca di far paura con la luce. A mio parere ce la fa, ha qualche problema forse nel finale, che diventa un po' troppo sbrigativo, ma parliamo anche di budget non straordinari, qualche effetto speciale non è giusto, ma bisogna secondo me concentrarsi sulla storia, sulla regia e su due bravissimi attori, ma anche i comprimari sono di grande valore, quindi io assolutamente promuovo Controra. E allora viva Controra, che è tra l'altro in 26 sale in Italia, voglio dire, non sono tantissime, però le grandi città ci sono tutte, Roma, Milano e soprattutto Bari e provincia, che è proprio la location, diciamo, principe del film. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Oh, bene, bene, beh, siamo felici di aver chiuso con un film promosso a pieni voti, diciamo così. Vi ricordo, tra l'altro, non abbiamo lo spazio per parlare diffusamente, che questa settimana esce nelle sale italiane anche il Wałęsa di Andrzej Wajda, insomma, sempre un grande del cinema europeo degli anni del Novecento e comunque degli anni 70-80. Andrzej Wajda con il suo Lech Wałęsa, per ricordare le gesta e la vita del premio Nobel. Allora, a questo punto noi siamo alla parte dedicata al cinema da vedere in casa e andiamo a risolvere quello che è stato il nostro quiz della scorsa settimana. Oh signore, erano 3 mesi che non vedevo. 96 giorni, dovevi vederlo, sembrava indemoniato. A un certo punto ha preso una padella e mi ha scottato una mano, guarda. E quando gli ho chiesto perché lo fai, sai cosa mi ha risposto? Che gliel'aveva ordinato la Madonna. E allora, Beppe Battiston in Zoran, il mio nipote scemo, film di culto della Mostra di Venezia dello scorso mese di settembre, buon successo poi nelle sale e adesso disponibile in DVD in un video. 3 i nostri ascoltatori che lo riceveranno per aver indovinato il film, ovvero Maurizio Politi di Perugia, Alessandro Chiatante di Carpaneto Piacentino e Francesco Magris di Pordenone. Saranno loro a ricevere il film del quale parliamo di questa edizione un video con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, questa commedia italiana regionale al confine tra Italia e Slovenia, dove un gigantesco Battiston con molto vino nel sangue e molta misantropia nel cuore riceve in eredità un nipote decisamente diverso da lui, timido colto e bravissimo a freccette. Davvero una sorpresa, come dicevi, all'ultimo Festival di Venezia, il film di Matteo Leotto, esordiente, esce in DVD per Cerchi Gori un video in un'edizione che rispetta pienamente le caratteristiche tecniche del film e offre tra gli extra una bella intervista al protagonista Battiston. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana, Zoran, il mio nipote scemo. Ma andiamo avanti a trovare, a cercare segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana e peschiamo un primo passaggio televisivo in chiaro domenica 8 giugno alle 23.45 su Rai 3, Animal Kingdom. Sì, un altro esordio, il primo lungometraggio dell'australiano David Michaud, che quest'anno è stato applaudito a Cannes per The Rover, è una delle migliori storie noir del cinema recente, ispirata a fatti di cronaca, un'educazione criminale a Melbourne, che è anche una narrazione corale densissima, un film opprimente di freddo realismo, ma dal grande trasporto emotivo che non cede mai al facile effetto e non ha bisogno di ammorbidirsi nell'ironia come fa tanto cinema di oggi. E allora, questo per quanto concerne invece Animal Kingdom, domenica 8 giugno, 23.45 su Rai 3, la segnalazione di Fin TV di questa settimana. Ciao Giulio, alla prossima! Ciao Franco, alla prossima! E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Io vi ricordo un evento in questo fine settimana, fino all'8 giugno, Monuments Men, che sta uscendo anche in un video, con il Monuments Men Weekend. Tutte le informazioni sul sito internet, 3 giorni per essere anche voi Monuments Men e difendere simbolicamente il patrimonio museale dell'Italia. Allora andate su Facebook, su internet e troverete tutte le informazioni di questo Monuments Men Weekend. E poi vi ricordo anche che tutti quelli che sono in giro dalle parti di Roma mi possono incontrare, ci possiamo incontrare il 12 di giugno, giovedì alle 18.30 allo spazio Fandango Incontri in Via dei Prefetti per la presentazione romana del libro sui mondiali, Il Mondiale è un'altra cosa. Grazie, appuntamento alla prossima settimana.